Buonasera. Buonasera. Ma è vero che la televisione può produrre effetti micidiali nelle famiglie? È quello che questa sera Cinico TV cercherà di appurare per voi. Abbiamo con noi i fratelli Sucato. A sinistra Pietro Sucato, 42 anni. Al centro Anna Maria Sucato, 74 anni. Francesco Sucato, 62. A destra Marcello Sucato, 34 anni. Signor Pietro, ci vuol raccontare la storia della sua famiglia? Eravamo una famiglia felice. Vivevamo chiedendo l'elemosina nelle chiese. A volte anche rubando? Sì, rubacchiando qualche cosa nei negozi, qualche gallina in qualche cortile, qualche portafoglio sopra gli autobus. E poi che cosa è arrivato a turbare questa quiete? Ma improvvisamente una brutta disgrazia si è abbattuta su di noi. Cioè? Uno dei nostri fratelli è diventato improvvisamente deficiente. Naturalmente quello al centro? No, quello in piedi, l'ultimo. E allora? È diventato un vero problema però, in quanto adesso lo dobbiamo mantenere. E per questo voi avete pensato? Avevamo pensato di ammazzarlo, buttarlo in una discarica qua vicino. A due passi? Sì, a due passi, qua vicino. E nel frattempo è arrivata un'idea geniale. Sì, abbiamo cambiato idea. Abbiamo pensato di chiedere un risarcimento alla televisione. Alla RAI? No, a Berlusconi. Anna Maria Sucato, come mai a Berlusconi? Francesco Sucato, io chiedo a Berlusconi che una persona innipotente. Innipotente. Onnipotente. Onnipotente. Che lui è una persona che può pagare tutte queste spese di 1.100.000.000 per questi poveri fratelli che sono stati ammattiti per tutte queste televisioni che la politica continuamente organizza sempre risse per questi poveri fratelli, e voglio che questo signor Berlusconi che ci risarcisca di 1.100.000.000. Ma non le sembra tanto? Ma è giusto, è una cosa che, siccome sono state tutta la sua vita disoccupate, quello completamente è diventato deficiente. E noi risarciamo questi danni perché possono vivere questi poveri fratelli. Anna Maria, è vero che finalmente lei con questi soldi, con i 100 milioni, potrà finalmente coronare un sogno, cioè quello di farsi operare a Casablanca e diventare donna? Sì, questi 100 milioni servono per l'operazione che dice lei. Per andare a Casablanca e diventare donna, ma veramente per diventare più uomo e più, diciamo noi, più comprensivo ad amare subito donne. Grazie Anna Maria. Prego, Francesco Sucato. Signor Pietro, e adesso? Adesso metteremo tutti nelle mani di un avvocato e speriamo che arrivi questo risarcimento. Voi pensate di farcela? Sì, pensiamo di farcela. Anna Maria, vuol concludere lei? Ma io, Francesco Sucato, posso concludere di dire che siamo davvero pietosi. Tutti? Tutti pietosi, anche lei, con la truppa televisiva. Non mi sembrate ricchi. Grazie. Prego. Buonasera. Buonasera. Eccoci qui. Innipotenti. Davvero, bellissimo. Era Anna Maria. Oh, signora, no, Francesco sul caso. Un inizio, possiamo dire, goliardico quasi. Sì, da brivido. Il risarcimento di Cipri e Maresco. L'ho ascoltato troppo che intensamente, spettacolo. Adesso ho dei problemi a pronunciare sì, le cose. È chiaro. E quindi, lo fa, è normale, lo fa. E che dire, si riprende da dove si era lasciato la volta scorsa, perché era una puntata, a noi ci sembrava tutta fatta benina, modino, cortina, siamo dentro i tempi, invece no. Ovviamente. Era una puntata terribile, era una puntata bellina, ribadisco. Era veramente molto carina. Come già fatto in chiusura. No, e quindi anche questa settimana ci dovremo scusare con i nostri affezionati ascoltatori, perché torneremo a parlare di Salvini. Ah, proprio lui, nel senso, abbiamo lasciato in sospeso un discorso piuttosto lungo sulla dialettica, terminologia, dialettica e enfasi particolare che Salvini usa per rivolgersi al suo... Non è nemmeno più una lettura... Te lo giuro, non riesco più a parlare. La profezia dei fratelli Sucato. Insomma, dobbiamo un pochino riprendere il discorso da amici, nemici, rosiconi, talebani e via dicendo. Ne abbiamo tantissima proprio. E, che dire, si inizia così. Facciamo un piccolo sunto, fatto è fatto, così non se ne parla più. In questa nostra diretta siamo partiti la settimana scorsa raccontandovi la fiaba ambientata negli anni 70 di Umberto Bossi, della sua creazione della Lega e del primo meccanismo linguistico utilizzato. Nenia, non mi faccia così, per favore, che mi rovina il parquet. E, questi meccanismi di, come dire, immedesimazione nel proprio pubblico, per cui utilizzare lo stesso gergo, lo stesso linguaggio, usare lo stesso tono di voce per riuscire a fare presa su un elettorato che fondamentalmente non ha una cultura, una coscienza politica particolarmente accese. Ecco. È deficiente. È diventato deficiente. Deficiente. E la stessa cosa ha fatto Salvini, aggravando però il tutto. Ci sono risate. Ma tutto questo è inquietante in realtà, perché è tutta verità, è la nuda e cruda realtà. Perché se negli anni, fino a 80, insomma, queste ispezioni di Cinico TV erano, come dire, insomma, in questa pantomima della realtà dell'epoca, effettivamente anche il più deficiente riusciva a capire dove stava la ragione, dove stava il bandolo della matassa, sentiamo. E quindi ripartiamo raccontandovi un po' come riconoscere Salvini a prima stronzata. Ecco. A primo acchitto. Vi ricordiamo che state ascoltando l'Accademia della Brusca, una trasmissione ad alto contenuto linguistico e generalmente letterario che sta scivolando da 2 settimane sulle bucce di banana della politica del bel paese. Però terrei a precisare che in realtà voi ci state ascoltando in diretta giovedì tardo pomeriggio, ma noi invece stiamo registrando in anticipo, quindi se giovedì è cascato questo meteorite sulla Terra, noi non ne possiamo parlare perché in realtà abbiamo registrato prima la puntata. Esatto. Non lo facciamo mai, ma quando lo facciamo lo diciamo sempre. Ecco, quindi se nel frattempo succede qualcosa di eclatante, noi non parleremo. Non possiamo testimoniare. No, è perché semplicemente abbiamo registrato prima, tipo, sappiate. Che muore. E invece lui è ancora lì a chiamarci tutti quanti amici, perché il mondo di Salvini e di conseguenza il suo emisfero cerebrale si divide nettamente in due: amici e nemici. Chi sono gli amici? Sono i suoi seguaci, sono gli elettori e soprattutto i suoi sostenitori. Che vengono chiamati da Salvini amici e nelle trascrizioni dei messaggi, perché effettivamente come scenario politico istituzionale abbiamo i social network, quindi dobbiamo parlare anche di scrittura, questi amici sono quasi sempre appunto indicati con una A maiuscola. E a loro ci si rivolge, anzi si rivolge Salvini sempre con un meccanismo di presa molto forte, quasi un tu per tu, e proprio un meccanismo diretto. Non so, citiamo qualche suo tweet, qualche suo post di Facebook, perché effettivamente tutto viene lì. Buonanotte amici, se sei dentro io sono dentro, grazie per la vostra fiducia amici. Questo vabbè, ti amo e so che avrò bisogno di te. Amici, finalmente, che giornata lunga. Ora pizza. Mamma mia, che schifo di scena. Chiede poi, sempre Salvini, chiede ai suoi amici di rimanere coinvolti nella sua vita quotidiana su Twitter e anche nella sua vita politica, assieme, insomma, mantenendo coeso il suo gruppo con frasi del tipo mi aiuterai a diffondere la parola, segui e commenta se vuoi, quindi c'è anche questa finta, no? Questo finto lasciare spazio all'intervento altrui, coinvolgimento del pubblico. La nostra comunità è davvero forte, amici, la comunità, ci sono veramente, ci si potrebbe perdere un'altra settimana, ma ve la risparmiamo. E poi, come è successo qualche sera fa, c'era questo fantastico post: mi volete indagare? Indagatemi. Mi volete processare? Processatemi. Mi volete arrestare? Arrestatemi. Io non sono solo. Se mi arrestano, mi venite a trovare, amici. Questo l'avevamo detto anche l'altra volta, ma è per allacciarsi un po' al discorso. Guai al primo che gli porta le arance. Secondo luogo, se non sono amici, sono nemici. Sì, chiaro, non sono nemici, non c'è un... L'emisfero è tagliato in due. E quindi proprio nettamente non è in grado di far, di far dialogare le due differenti metà dell'emisfero. Quindi, i nemici. Il personaggio Twitter di Salvini non si preoccupa mai dei suoi nemici, che sono molto presenti su questo canale, gli intellettuali e i politici di sinistra, ovviamente. Usa solamente delle citazioni per proiettare vergogna, no, su questi stessi nemici, non li tira nemmeno troppo in causa. Un esempio: quando il settimanale L'Espresso pubblicò una copertina aggressiva che illustrava la sua mancanza di umanità, lui ha risposto con un tweet e lo chiamano giornalismo. Anche quando un sacerdote se n'è uscito contro di lui, Salvini ha inveito dicendo pregate perché questo sacerdote ne ha bisogno. Siamo veramente a dei livelli. Manderà un sorriso a Yanis Varoufakis, l'ex, non mi ricordo se lo sia ancora, l'ex ministro dell'economia di Tsipras. O inizierà la giornata con un buongiorno a tutti, buonisti inclusi. Buonisti proprio, buonisti, ci si sciacqua la bocca. Rosiconi, che sono anche stati... vabbè. Cosa facciamo però? Prima di parlare dei buonisti, dei rosiconi e del buonsenso, ci ascoltiamo qualcosina oppure facciamo intervenire un ospite a sorpresa? Facciamo intervenire l'ospite a sorpresa perché è una mia carissima amica. Non me l'aspettavo da te. Sì, è una mia carissima amica, si chiama Vicky. Signorina, buonasera, eccomi qua. No, sono contento che è tornata a trovarci, ma non sono sull'albero. E beh, che cosa fa con quella mazza? Non avrà mica partecipato anche lei agli scontri di venerdì scorso a Casal Bertone? Prima di tutto questa non è una mazza, bensì uno scudo. Perché noi propagandiamo solo qualora provocati e rincorriamo solo qualora rincorsi. Secondo di tutto, vengo proprio adesso dal presidio dove abbiamo voluto manifestare per dire no alla violenza della logica mafiosa e dell'antifascismo militante. Sì, è una teoria un po' difficile da sostenere, ma insomma comunque... No, ma manco per niente, io infatti sono qui a testimonianza che noi vogliamo proprio soffocare questo brutto clima d'odio che si è venuto a creare. E sono venuta a invitarvi a voi, malgrado zecche, alla nostra serata. Alla nostra serata di domani, serata turbocogliardica! Ah, sì, sembra una bella iniziativa. È una bella iniziativa, trattandosi di una serata, appunto, di praticamente un festival da goiardia, in quanto la goiardia è sicuramente la nostra filosofia di vita, insieme anche alla nostra proverbiale autoironia, e questo non potete dire niente perché è proprio un aggettivo categorico! Lasci stare... queste dichiarazioni generali. Venga in concreto, come si svolgerebbe la serata? La serata turboiardica? La serata turboiardica praticamente è una serata non conforme, infatti inizia un orario strano, e 19. Vi potete appropinquare al nostro uscio, all'uscio. All'uscio troverete Tullio. Tullio. Vabbè, ma non si può parlare con voi. Sarà sempre a interrompere. Sarà il vostro modo di comunicare. Possiamo tanto no, democratici. Ma avanti, democratici. Un corno. Allora, sabato, per favore, sto dicendo che se voi venite all'uscio, all'uscio, trovate Tullio. Tullio, il ragazzo mio, che ha l'accoglienza, che lui si accerta che chi entra era italiano, niente droga, niente armi, niente prostituzione ed essere italiani. Dopo, quando siete entrati, appena entri proprio subito ti danno un... Uno schiaffo? No, ti danno un... Una spinta? No, un cocktail di benvenuto. Ah, bene, no, mi ero spaventato. E dopo il cocktail come prosegue la serata? Te fate troppe canne qua, che fumo. Vabbè, allora... No! Vabbè, stiamo a parlare. Ma no, ma sono gesti di approvazione, vada sì. Avanti. Allora diceva... Fatevi parlare. Allora, alle ore 21 c'è la cena vichinga, ossia una cena non conforme, una cena medievale in cui le pietanze vengono ingerite in assenza di forchetta. Sì. Allo stesso contempo potrete partecipare alla battaglia dei gavettoni di birra, sempre all'insegna della nostra classica goliardia e anche di una certa abbondanza di birra che noi abbiamo. Bene, bene, è interessante, però so che poi farete visitare anche la vostra sede. Sì, assolutamente, sì? Assolutamente. Voi potete fare tutto una visita guidata a Casa Pau, sicuramente, così magari prima di parlare di noi magari vi informate bene. Voi potrete, ad esempio, passeggiare per il nostro corridoione, dove ai quali muri vi si recano i nomi dei nostri riferimenti culturali, potrete visitare il bivacco e potete visitare la nostra biblioteca! La biblioteca, ma che bella idea, sì, ma che autori avete in biblioteca? In biblioteca sicuramente ci sono taluni autori futuristi, sicuramente poi ci sono alcuni autori. Sì. E poi sicuramente ci sta la poetessa maestra del correlativo oggettivo, Elsa Pound, che dà il nome alla nostra associazione di promozione sociale. Scusi, non ho capito, chi è la poetessa? Elsa Pound. Elsa Pound, la poetessa patriotta inglese, la quale reca infatti nel proprio cognome proprio la moneta propria del proprio paese, il Pau, e la quale proprio capito come era fatta lei, proprio a sottolineare questa non schiavitù nei confronti delle banche e dell'euro. Sì, ma mi scusi, sa, ma allora, mi sembra... andiamo no, ma aspetti con un attimo, c'è una confusione che devo dirimere, cioè a parte la nazionalità, ma non è Elsa Pound, è Ezra, è un uomo. Un uomo, ho sbagliato, fare un quadrato. No, ho sbagliato. Non si preoccupi. Com'è? Enzo? No. Enzo Pound? No, Ezra, ma lasci stare. Enzo è lo stesso, tutti possiamo sbagliare. E insomma, ci dica a questo punto come funziona la serata. A questo punto la serata sicuramente va avanti con le ore 23. Quando sì. Potrete partecipare, assistere, perché partecipare voi mi sa di no, al nostro concorso di poesia non conforme, praticamente un concorso di poesia in cui vengono declamati a petto nudo alcuni versi di alcuni poeti fascisti del terzo millennio. Scusi, ma perché a petto nudo? Ma aia, su, sicuramente, abbassa la violenza, assolutamente. Il petto distorsione della virilità e del testosterone, perché si sa che se uno fa poeta o comunque declama qualsiasi cosa, è un po' frogio. No, frogio non devo dire! Fare un quadrato! No, lasci stare, ma non si preoccupi. L'è scappata, questa l'è scappata. Andiamo avanti. Cosa c'è dopo la declamazione? Quando vengo qua mi sconvolgo, mannaggia voi. Allora, alle ore 1 c'è il grande evento clou della serata. Praticamente ci sta la rievocazione storica della campagna militare in Bretagna di Settimio Severo. Se ho capito bene, la rievocazione storica della campagna militare in Britannia di Settimio Severo. Ma e come avviene? Praticamente ci sta questa grandissima vasca, non conforme ovviamente, dove due ragazze si sfidano in una lotta greco-romana nel fango e rievocano... sta campagna, fanno a capelli, insomma molto bello. Vabbè, sarà bello, ma non mi sembra che abbia una grande attinenza storica. Ammazza, il fango viene direttamente all'Agropontino. Cioè, non è che è venuto da solo coi mezzi, me lo sono collato io col motorino del bauletto, ho fatto 20 viaggi. Lasciamo perdere l'Agropontina. Lei è molto brava, però... Cosa c'entra l'Agro Pontino con la Britannia? E allora le foibe? Ma cosa c'entrano le foibe? Cosa c'entrano? È una questione seria, non può tirare in ballo quando non c'entra niente. Niente! Faifa, Comunque questa è una serata da paura, una festa da paura. Pensa che l'anno scorso ci stava la fila fino al videonoleggio. Addirittura? Sì. Credo. Cioè, mi ha detto Tullio. Ah, perché lei, scusi, l'anno scorso non ha partecipato? No, l'anno scorso ero ancora da Roma. Comunque adesso me devo andare perché iniziano i preparativi per la serata di domani e io ho un ruolo molto importante, devo spicciare. Ma scusi un po', ma lei approfitta di tutte le volte che io non ci sono per venire qua? Ma che fa, ci spia? Ci faccia capire. Ma vedi questa? Ma sta zitta, ma ringrazia che sto da sola, che se eravamo in 7-8 imparavamo noi l'educazione. Ecco, brava, va. Arrivata. Ma va, te ne va. Te le cani. Ma ringrazia. Le sorelline. Vicky, geniale, geniale Vicky. Personaggio capolavoro. Capolavoro. Sì, questo è il capolavoro della famiglia Guzzanti. Devo dirlo. Sì, sì, sì. Sì. Al passo coi tempi. Sì. Purtroppo. Mi piace, sì, infatti. Modo per tirarsi su di morale. Anche perché ormai la connessione tra il governo e il pensiero neofascista è abbastanza ormai forte. Per cui diciamo che di Vicky in giro ce ne sono anche troppe. E quindi... Come dire, come abbiamo introdotto con la Vicky un bel tema che è quello dei nemici di Salvini. Perché sarà tutta un'alternanza di farsi del bene e farsi del male. Farsi esatto. Del bene e farsi del male. Proprio iniziamo a farci del male. Nel pieno del masochismo. Sì, sì. Nostro e nei vostri come amici nemici ci facciamo bene e ci facciamo male, esatto, capito? Anche il nostro emisfero linguistico è diviso così. Così, nettamente. Quindi, però, all'epoca, questo video che abbiamo visto è del 2012. Yes. Il termine buonista non c'era ancora, perché buonista è arrivato un paio d'anni fa. Che dire che, ovviamente anche i buonisti ricevono buongiorno, buonasera e tanti saluti dal nostro caro Matteone. Ed è una parola decisamente molto usata, io direi abusata. È una categoria inventata da... Salvini, ovviamente sta all'interno della sovracategoria dei nemici, quindi coloro che non comprendono Salvini e il suo pensiero e sono ovviamente di sinistra. Questi buonisti sono però ingenui, non sono i talebani che vedremo dopo, ma sono anime belle della nostra era. Un esempio tra tutti è questa frase: i buonisti di sinistra vogliono i porti aperti a tutti. Lo sanno che 5 milioni di italiani vivono in povertà, prima gli italiani. E il resto si vedrà, ha pure fatto la rima. E, quindi questa è una, diciamo, uno dei pubblici contro cui lui si rivolge. Poi abbiamo ovviamente anche i rosiconi, che sono le persone che hanno un atteggiamento decisamente critico nei suoi confronti. Rosicone, termine romano, che sta a indicare uno che rosica, che gli rode molto. E questi critici vengono raggruppati nell'International of Bitter Haters, cioè pure vedete, siamo andati a scandagliare proprio come dire, gli antri più reconditi dei discorsi di Salvini. Abbiamo trovato anche sta roba, ragazzi. L'International of Bitter Haters, quindi l'internazionale dei rosiconi. Coloro che seguono una dieta costante di Malox. È chiaro. E sembra quasi, questo frammento è, non mi ricordo, ma l'ho preso da un giornale online molto carino, forse Carmilla addirittura. Potrebbe sembrare un eco internazionale del capolavoro pre-presidenziale di Trump del 2013. Invece no, il rosicone è un'invenzione tutta italiana. I bitter haters sono italiani. Abbiamo da esportare anche grandi insegnamenti. Esatto, perché Trump disse: vorrei esprimere i miei migliori auguri a tutti, anche ai nemici e ai perdenti, in questa data speciale, l'11 settembre. Beh, un'eleganza, vedete, proprio meravigliosa. Però nei suoi tweet Salvini è estremamente, come dire, vorace ed è molto molto aggressivo. E si risponde, diciamo, sempre per le rime. Quando un idiota, per esempio, a suo dire ovviamente, lo insulta in calce, ovviamente tutto questo avviene nel teatrino dei social, quindi lo insulta in un post su Instagram, ovviamente Salvini non esita a dargli del coglione e dirgli che sei è la vergogna dell'Italia. Il ministro dell'interno replica, in questo caso, se mio figlio si rivolgesse così ad un'altra persona, due sberle, non gliele toglierebbe nessuno. Cresci bene ragazzi, l'educazione arriverà, spero. Quindi abbiamo visto su Twitter comunque non ci si rivolge mai direttamente con accuse, ma sarà mica perché Twitter è presidiato generalmente da giornalisti e da politici anche internazionali. Invece è il palco. Esatto. E, no, più che altro forse ci dovrebbe essere un confronto troppo serrato e troppo acuto e lui non è assolutamente in grado di... Invece su Instagram, dove c'è prettamente un pubblico di giovincelli, tanto vale utilizzare, insomma, questo codex. E infine, una cosa che sembrerebbe non centrare assolutamente nulla tra gli amici e i nemici, e quindi questi due emisferi completamente separati, è il discorso del buonsenso di Salvini. Te l'avresti mai pensato? Ho capito. Io non so se parlarvene subito. Sì, dai, questa digeriamola. Lo diciamo subito? Così, è importantissimo. Sì, così ce la togliamo subito. Dice sì. Faccio fatica. Allora, no, infatti, effettivamente. Dice sì, buon senso per Salvini. Un duro lavoro, ovvero Salvini insiste su un insieme limitato e rassicurante di luoghi comuni sul buonsenso. Duro lavoro, supporto per la polizia, sovranità nazionale contro l'UE, globalizzazione, guerra agli immigranti illegali, che sono per lui l'unica fonte di criminalità e instabilità in Italia. Questa è la formula del buonsenso di Salvini. Infatti, promette di chiudere i porti, di espellere gli alieni, no? Quindi chi non è... Tutto. Non è... Ma uno si potrebbe anche tranquillamente immaginare che si stia parlando invece dei marziani, eccetera. Lo sono anche loro, un problema. Certo, grosso. Firenze, insomma. Ci assicureremo meno soldi e tempo per gli immigrati clandestini. Gli affari vergognosi dell'immigrazione clandestina devono diventare sempre meno. Ovviamente le ONG sono corrotte, soprattutto quelle colluse che presumibilmente aiutano gli immigrati in Italia per questioni di lucro. E quindi Salvini diventa il nostro tutore della sicurezza grazie al suo buon senso, parola che ripete. Però affianca, o meglio immerge l'uso di questo buon senso come parola proprio all'interno di un linguaggio un pochettino più morbido rispetto a quello che riserva ai rosiconi. Generalmente buon senso in maiuscoletto. Il buon senso è necessario, scrive quando afferma che l'Europa deve condividere il problema dei non rifugiati con l'Italia. Dice che questo buon senso è buona fede, che tutti hanno il diritto di amare, crescere e costruire una famiglia nel paese in cui sono nati. Gli immigrati illegali però devono andare a casa loro. E rafforza tutto con un mi sbaglio, quindi una domanda retorica. Vabbè. E ancora sul caso di Ciotti, lui ha parlato durante l'estate nel nome del buon senso, cioè l'Italia è un paese dal cuore grande, quindi facciamo una prefazione proprio come dire, di qualunquista, perciò i bambini scendano subito da quella nave. Questo è quello che ha detto inizialmente. Però questa missione è arrivata leggermente fuori tempo massimo e solo dopo grosse pressioni i bambini appunto sono stati fatti scendere dalla nave e lui, per celebrare il momento, ha ricordato a tutti quanti come anche lui sia un papà, perché l'abbiamo detto anche la volta scorsa. Salvini. Che figurone. Che gran ha prolificato, bravo papà. Che grande papà. Non correre papà. Non correre papà. Ma siamo sempre lì. Io guarda. E quindi insomma, visto che a questo punto la ricetta, con tutto questo buon senso e la rassicurazione, la sovranità nazionale o la hit dell'estate. Della sicurezza. Ti devo far sentire la hit dell'estate. Bene, non l'avevamo ancora spolverata, per cui questa me la sono tenuta nella saccottina come saccoccia. Robin Hood le sue monetine nel sacchetto verde. Terror ecco, di tutta la foresta. Bellissima. Ehi voi, capelloni sovversivi, ecco la canzone che vi rimette in riga. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Questo è il ballo della Bigos. Spia, spia, spia. Questo è il ballo della Bigos. 1, 2, 3, 4. Questo è il ballo della Bigos. Spia, spia, spia. Questo è il ballo della Bigos. 1, 2, 3, 4. Siamo i servizi, controlliamo i vostri vizi. Siamo i servizi, controlliamo i vostri vizi. Siamo i servizi, controlliamo i vostri vizi. Siamo i servizi, controlliamo. Quando meno te l'aspetti, noi spuntiamo dai muretti. Alle 5 del mattino ti svegliamo col mandato. Noi sappiamo tutto quanto e l'hanno raccontato. Infiltriamo, controlliamo, tabuliamo, manovriamo, spifferiamo, arrestiamo, condanniamo, carceriamo. One, two, three, four. Questo è il ballo della Bigos. Spia, spia, spia. Questo è il ballo della Bigos. Spia, spia, spia. Capelloni sovversivi, siete spacciati. Basta con le siringhe di marijuana, ora per voi c'è solo il manganello e l'olio di ricino. La Bigos è bella. La Bigos è brava. La Bigos è bella. La Bigos è brava. Questo è il ballo della Bigos. Questo è il ballo della Bigos. Viva i tutori dell'ordine. Viva i carabinieri. E viva la polizia di Stato. massimo rispetto alla Guardia di Finanza. Un abbraccio sincero ai Nox. Rispetto alle guardie svizzere. Bravi anche i metronotte. Un bacio a tutti i vigili urbani. Bacioni ai vigili del fuoco. Evviva le ambulanze. Sì, alle USL. Passo e chiudo. Passo e chiudo. Che bello, un po' di allegria. Ne avevo bisogno. È stata assieme a forse Toxic di Britney Spears, è stata una delle canzoni dell'estate, delle nostre vacanze. Sì, sì, sì. Perché Nenia e Nina e Nenia sono state anche in vacanza insieme. Certo, assieme con questa colonna sonora. A tutto spiano. E proprio, insomma. Che bello. Questo. Ma lo volevi tenere come sottofondo? In realtà avevo un'altra idea, ma ora mi sono persa il file, quindi te lo farò sentire dopo. Ah, però se bene, la vuoi te la tengo tutta lì pronta pronta. Ma no, ritorniamo al massimo della serietà, perché altrimenti poi ci si... la voce. Sì. Quindi manca poco, ve lo promettiamo, manca pochissimo. Sì, era una chiusura che dovevamo fare, ma non vi vogliamo tediare troppo, esatto. Quindi faremo anche cose un po' divertenti, esatto. E saremo brevi. Sì, saremo brevi e coincise. Anche perché quello che vi sto per dire è veramente un qualcosa di vomitevole. Salvini, uomo forte senza paura, ovvero Salvini papà. Con il buon senso e questo cinguettio amichevole che lui ha lanciato dopo la discesa, discesa è terribile, comunque dopo il rilascio dei bimbi della 18, Salvini ha costruito mediaticamente una bolla con cui non farsi letteralmente bruciare quando si spinge un pochino più in là con le sue provocazioni retoriche. E, tweet di Salvini che diventano progressivi e che stuzzicano i suoi fan, perché fondamentalmente non si può parlare di un elettorato cosciente, no. Sono fan a questo punto, no, farmaci non steroidei. Mi manca sempre là, ma vabbè. E per determinare se in effetti si possa già determinare se siamo o no entrati veramente in quell'era in cui è ok dare della scimmia a Balotelli, per esempio. Siamo entrati in quell'era, ragazzi. Sono seriamente preoccupata. Esatto, quindi non smetterò mai di ripeterlo ormai da diverso tempo. Infatti il motivo comunque per cui noi abbiamo fatto e stiamo facendo questa puntata è anche quello, cioè cercare di dare una chiave in più di lettura proprio tecnica di quello che è il pensiero di Salvini, per eventualmente, se avete, conoscete, mi auguro non siano vostri amici, ma insomma se conoscete qualcuno che effettivamente è convinto che l'operato di questa persona sia condivisibile, ora avete gli strumenti per smontarlo. Si tratta molto semplicemente di una propaganda sempiterna e basta. E insomma, vi facciamo ora una bellissima carrellata di alcune cose che Salvini ha detto e che hanno offeso sia l'opposizione che tantissime persone e associazioni varie, ma che non hanno mai, non gli hanno mai alienato la simpatia dei suoi seguaci. Abbiamo bisogno di tolleranza zero, espulsione di stranieri clandestini. Le nostre città devono ancora respirare l'aria della legalità. Questo è il mio obiettivo. L'ipotesi che gli italiani già pensano che la legalità sia scomparsa dalle nostre città in decadenza proprio per la presenza degli immigrati. Per proteggere i nostri cittadini dobbiamo proteggere i nostri confini. Fa anche la rima, guardate. È in grado di fare una... L'ha detto una... Salvini. L'ha detto Salvini. A. Salvini desidera sembrare forte, ma non pazzo. e vuole sapere effettivamente se certe idee e pregiudizi sono già pronti ad entrare nell'immaginario mainstream e se qualche cosa che fino a ieri era, risultava inaccettabile, abbiamo fatto il paragone poco fa con Cinico TV, ora è diventato qualcosa di accettabile. Una volta ottenuta la risposta, può premere sull'acceleratore e provare a dire qualcosa di ancora più cattivo. Si sale di livello, decisamente, quello che è stato fatto anche in questi ultimi mesi, ma anche soltanto se ci pensi da marzo adesso, nemmeno parlando di chissà quanto tempo fa. Azioni governative c'è stata già zero, l'accelerata, ma... c'è stata già, sì, un po' perché siamo ancora in continua campagna elettorale, un po' perché appunto... il meccanismo linguistico si deve un po' sciogliere, però sì, si sta già facendo questo. Sì, sì, tanto è vero che so che l'edizione 2019 del Garzanti avrà Buonista tra le voci. Capito. Sono curiosa di leggere come verrà, verrà espressa. Tra l'altro, probabilmente, chissà, la prima puntata del 2019 della Brusca. Surprise! Potrebbe contenere nuovi lemmi, chissà. Sì. Faremo chiusura anno con i vecchi e apertura anno con quelli nuovi. Perché no? Io ho trovato di nuovo il file del seguito della nostra vacanza estiva. Bellissimo. Della nostra quello hit dell'anno. Un pochettino più serio. Quello che ci fa capire come stanno le cose. Sì. Che facciamo? Lo mettiamo subito? Sì, va subito messo quando ancora il disco quando è caldo. La botta è ancora fresca. Ladies and gentlemen, inizia lo spettacolo. Siete caldi? Fatevi sentire. Ragazzi miei, qui ci stanno prendendo in giro a tutti. È giunto il momento di dire come stanno le cose. Siete pronti? Ecco la mia orchestra, i Recycle. One, two, three, four. Non ci sono più le mezze stagioni. Non è il caldo ma è l'umidità. Non si trova più un parcheggio. I negri hanno il ritmo nel sangue. Quando si ha sete, non c'è niente di meglio di un buon bicchiere d'acqua. I marocchini ai semafori guadagnano 500 euro al giorno. Ai miei tempi ci si divertiva con un niente. Ora i giovani hanno tutto e non sviluppano la fantasia. Non è per i soldi, è per il principio. È tutta colpa del buco dell'ozono. Io facevo 30 km al giorno sotto la neve per andare a scuola. 1, 2, 3, 4. L'età vera è quella che uno si sente. da un giorno ad un altro, si passa dal costume da bagno alla pelliccia. Io a letto con te non vendo, perché per me sei come un fratello. Ragazzi miei, è tempo che tutti sappiano la verità, e noi siamo qui per dirla, forte e chiara. Pippo Baudo è un gran professionista. Pippo Grando è un gran professionista. Pippo Baudo. Pippo Grando. Pippo Baudo è un gran professionista. Noi lo siamo un pochino anche noi. Talloni e scarpe. Sì. Che però, dire. A me con tutti questi brutti discorsi mi è venuta voglia di divertirmi. Ma che c'è questo fine settimana? Che si fa allora, a Firenze dintorni? C'è la famosa cena per il compleanno del Next Emerson. E tra l'altro, se volete prenotare, dovete mandare una mail a csemerson@. Noi non sappiamo. Eccoli sempre impreparata. Perché ho pensato, la rubrichina non la preparo perché tanto siamo registrati. Però questa però è una cosa che possiamo... questa almeno ci sta, perché ci ricordiamo. Andate nel sito del Next Emerson, ecco, e controllate. Ma anzi, aspetta. Ve lo diciamo in diretta perché questo studio radiofonico è fornito di cellulari con la 3G. Allora, intanto vogliamo ricordare i social Wombat? Sì, allora, ovviamente abbiamo il nostro caro Twitter, che è twitter.com/radiowombatfi, come Firenze, il Facebook, che viene usato poco, ma qualora c'è, vogliate, c'è, che è facebook.com/radio-wombat-firenze, scritto per intero, e infine, ovviamente, la nostra mail, che vi consigliamo caldamente di riempire di messaggi, postawombat@insiberia.net, l'indirizzo mail più bello che c'è. Ecco, bellissimo. E nel frattempo ho trovato l'altro, il secondo, più bello che c'è, della mail da mandare al Next Emerson per prenotare questa cena di sabato 13. La mail è assemblea@csaexemerson.it. Specificare se vegetariani, vegani o eventualmente celiaci, insomma. E tutte le discriminanti e tutto il resto. Serata con... Whitaker. Brava, questa taker. Volta lo pronunci tu, io ho dato. Quindi antipsichiatria, dibattito, soprattutto una piccola conferenza. Sti ragazzi dell'Emerson hanno combinato qualcosa di veramente modino. E poi concerto con i mitici Polemica dall'Abruzzo, che sono nient'altro, niente proprio di meno, no, oggi non riesco a parlare, che gli ex Sabò, gruppo storico che si è esibito un sacco di volte belli, a Firenze. Belli. E che vi consigliamo ovviamente di non perdervi, perché non sappiamo quando torneranno a Firenze. E a proposito invece di Facebook, di cui si parlava prima, sabato c'è stata la presentazione di Mastodon alla Polveriera. E non ci sono stata, ma ho ascoltato la puntata di Coccole al Silicio, in cui si fa un po' una panoramica di quello che è successo, vi racconterà nel dettaglio un po' che cos'è Mastodon, insomma riprende un pochino l'argomento, quindi visto che sarete sicuramente già sul nostro sito, andate a riascoltarvi il podcast dell'ultima puntata di Coccole al Silicio. E che altro? Non vi possiamo dire che dopo ci sarà 8 Hertz perché non è vero, ma lo diciamo lo stesso perché sarà vero giovedì. Sarà vero giovedì con una puntata, l'annunciamo, su una serata che è stata fatta sempre al CSNX Emerson l'estate scorsa, dedicata a Shelley, è stata la Shelley Night. Ah, interessante, quindi tu hai questa anticipazione. Io vi do questo gossip bellissimo, ovviamente anche quella interessante. Una bellissima serata fu quella. Bellissima. Quindi davvero ascoltate 8 Hertz. Letture e canti. In diretta giovedì o in replica venerdì e sabato, presumo, o sabato e domenica. Sì. Sabato e domenica. Insomma, guardate anche il palinsesto perché ci sono state delle modifiche. Non possiamo promettervi che lo impareremo a memoria, ma ci proveremo. Ci proveremo. No, lo devo semplicemente stampare un pochino più grande, aggiornato e metterlo qua davanti. Adesso ho delle serie difficoltà. Che altro? Finiamo questo brevissimo discorso, stralcio, giusto per darvi un punto finale della situazione e poi lasciarvi a un giovedì prossimo una puntata un po' più serena, un po' molto più tranquilla, più tecnica e meno, che vi consentirà di e meno essere... Malox, esatto. meno Malox ma meno che Malox. Giovedì ci sarà una puntata più serena. Allora, chiosa finale: come riconoscere un Salvini da un punto di vista linguistico e linguistico e non colpa mi viene mia, ti ho distratto perché dicevo delle cose sottovoce per confonderle le idee. E neurodegenerativo, ecco. Discorso perennemente passivo-aggressivo, frasi feroci ma con chiose del tipo: e lo dico con un sorriso, con un abbraccio, siete tutti dei pezzi di merda, ma ve lo dico con un abbraccio. E se questa persona, se costui o costei, se la prende con i giornalisti, quasi stesse stendendo delle liste di proscrizione, no? Però gli augura con tono minatorio una lunga vita umana e professionale. Insomma, forse porta pure merda Salvini, Taci. E quindi con questo buon senso al governo, il suo essere un talebano, questo think tank, che è un termine inglese che si usa, si sente spessissimo nel gergo giornalistico, e che è quindi un termine ripreso da un contesto differente e riutilizzato nel contesto leghista. Probabilmente siamo all'apice, siamo oltre il rosicone. E soprattutto vi invitiamo ad andare a vedere la nuova copertina della pagina Facebook di Salvini, e con questa chiudiamo dicendo che la sua copertina cita questa frase: se voi ci siete, io ci sono e non mollo. Vabbè. Penso non ci sia bisogno di aggiungere altro. Non c'è bisogno di dire altro, sì, infatti. Direi che questo è più che sufficiente. È così. Basta. Basta, non me la sento più. Posso chiudere anche la scaletta? Sì, chiudila, ti prego. Voglio dare un fine a non questa. Non ci vedo doppio. E vi lasciamo così, con un pezzo musicale. Con un pezzo musicale divertente. Che poteva essere la nostra. Perché mettiamo sempre cose trash e divertenti e non ci facciamo mai prendere dallo sconforto. Questa volta anche in chiusura vi daremo qualcosa di stupido ma carino. E vintage. E vintage, sicuramente. E che dire, alla prossima. Ascoltateci giovedì in replica, ascoltate Radio Wombat. Ciao. E un bacio. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao amici. Ai ai ai, se faccio un figlio, ai ai ai, lo chiamo Emilio. Sempre meglio di Basilio, se la femmina non so. Aspettava vestito a festa, con tre hamburger nella tasca e dei cavolini di Bruxelles. Quando vide una donna bianca, tutta nuda fino all'anca, si scaldava la poveretta con un elegante copertone. Lui la volle possedere, ma lei era un carabiniere, travestito da brasiliano per arrotondare un po'. Ai ai ai, se faccio un figlio, ai ai ai, lo chiamo Emilio. Sempre meglio di Basilio, se una femmina non so. monaca un po' foca che soffriva di pelle d'oca. Non amando le calze nere passeggiava coi colori. Fredricheco tentatore le mostrò le giarrettiere e per fargliele provare la invitò nel suo igloo. Ma la foca per natura quando è nuda ha paura, senza qualche precauzione la pelliccia non ti dà. Ai ai ai se faccio un figlio, ai ai ai lo chiamo Emilio, sempre meglio di Basilio.